la frase più gentile, tutti dicono i giornali non capisco perché non hanno il coraggio di ripetere queste frasi. L'unico che lo fa è il Messaggero. La frase più gentile che possiamo riportare che dice Carla Bruni in questa cosa è come tradurre in italiano, inglese e tedesco con la voce roca e l'accento perfetto: mettimi un dito nel... mi fermo qui. Ovviamente quando è rispuntato questo video vecchio di quando lei faceva l'attrice, di quando insomma non era la Premier Dan, poi è scomparso. Pressioni dell'Eliseo, pressioni dei Sarkozy, non si sa. Il regista Casal ha detto: sto cercando di distribuirlo in qualche modo. Intanto lo mette su YouTube e misteriosamente scompare. Lui lo rimette su YouTube e misteriosamente riscompare. Comunque c'è questa Carla Bruni che poi illustra la guida internazionale del sesso in 7 lingue tirata fuori dalla borsetta. Carla Bruni in versione scandalosa scuote la Francia e irrita Sarkozy. Il video censurato spunta su YouTube come quella frase: mettimi un dito nel... tradotta in varie lingue, Carla Bruni ci dice come si dice in italiano, così in inglese, in francese, in altri modi. Ci fermiamo, votate il sondaggio. Allora, dobbiamo dare più soldi ai paesi in via di sviluppo, visto che siamo ultimissimi nella lista a farlo. Sono le 8:18 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati, è il momento della nostra, la Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci qua. Nostra de che? No, di chi? Nostra, nostra, del pubblico. Del pubblico di Radio voi. 24, mondiale, dei planetario. Dei nostri ascoltatori, sempre. Senti, in crescita. Volevo fare una piccola, un annuncio, chiamiamolo così. So che molti ascoltatori stanno ovviamente leggendo con grande attenzione un po' tutte le misure che sono soprattutto rivolte alle famiglie contenute in questa manovra da 24 miliardi che è stata annunciata dal governo. Volevo rassicurare gli ascoltatori che faremo tutti i passi necessari per far conoscere questi provvedimenti a partire da probabilmente la prossima settimana, quindi ovviamente Salva Danaio sarà molto concentrato su questi aspetti, per cui rassicuro tutti, non è che stiamo mancando in questi giorni, ma su molti punti che sono ancora un po' nebulosi, le pensioni, naturalmente tanto altro, aspettiamo di conoscere tutti i dettagli necessari per essere ovviamente esaustivi nelle nostre informazioni. Peraltro lunedì prossimo proprio il Sole 24 Ore pubblica un primo speciale, un dossier sulle novità legate alle pensioni, per cui già il nostro primo appuntamento sarà quello. E questa è una prima cosa che andava detta e ricordata ai nostri ascoltatori. Oggi invece, per quello che riguarda soldi e dintorni, parliamo di gruppi d'acquisto. Noi ne abbiamo già parlato altre volte nel nostro contenitore, per esempio vi avevamo raccontato di quello dedicato al latte in polvere per le mamme del Trentino Alto Adige e l'altro per i pannelli solari sui tetti delle case in Emilia Romagna. In Italia ce ne sono numerosissimi, sono gruppi solidali che si formano autonomamente fra famiglie o gruppi di persone che sono accomunati dalle vivere vicini o con gli stessi interessi di consumo critico, si rivolgono a fornitori selezionati, si ritrovano con regolarità e organizzano l'acquisto e poi la distribuzione dei beni appunto acquistati. Sono tutte iniziative che nascono dall'esigenza di accorciare la filiera che porta dal produttore al consumatore. Oggi parliamo di un'ulteriore evoluzione dei GAS, un progetto più ampio, di più ampio respiro, che nasce a Bologna, si chiama Spesa Utile, promosso da ISNET, impresa sociale .net. Vi raccontiamo tutto stamattina con la presidente dell'associazione ISNET, Laura Bongiovanni, che saluto. Presidente, buongiorno. Buongiorno Deborah, ben trovata. Grazie. Allora, la presentate proprio oggi a Bologna, quindi la ringrazio per l'anteprima. Che cos'è Spesa Utile, ancora prima di raccontarci che cosa fate nell'ambito di ISNET? Sì, Spesa Utile, l'ha ben definita lei, Deborah, in anteprima, l'ascoltavo, è un'evoluzione dei GAS, nel senso che riprendiamo i concetti legati alla filiera corta, alla valorizzazione delle produzioni locali e quindi soprattutto dei fornitori locali, ma aggiungiamo a questi aspetti dei requisiti di solidarietà e di sostegno che ci stanno molto a cuore, perché l'associazione ISNET è un'associazione di imprese sociali che dialoga in particolare con il pubblico della cooperativa sociale e quindi ha interesse a valorizzare l'attività svolta da questa tipologia di organizzazione sui territori. Di fatto sono proprio le cooperative sociali che agiscono sul canale della intermediazione e fanno le consegne della busta della spesa ai clienti Spesa Utile. Mm. Quindi in sostanza è come un gas, perché valorizza anche le produzioni locali, ma è strutturato, mi ha scritto così il mio collaboratore Alessandro Longoni, che mi aiuta a preparare le scalette, secondo principi di comodità per chi deve fare la spesa. Sì, esattissimo. Mm. Allora, il gas, come sappiamo, io conosco bene il sistema anche perché sono una gasista, così come si dice in gergo, e contempla il fatto che chi aderisce alla rete e poi vada nei punti di ritiro personalmente a ritirare appunto la spesa ordinata. E questo spesso è piuttosto scomodo, soprattutto considerando i tempi a cui tutti quanti siamo costretti nelle dinamiche della vita quotidiana. No, anche perché magari se le famiglie che si organizzano sono 10, possono essere vicini di casa, è più facile. Quando il gruppo del gas è un po' più ampio, è chiaro che magari che la famiglia incaricata dell'acquisto quella settimana, in quel momento, sta un po' più lontana rispetto ad un'altra, è chiaro che si tratta di riorganizzarsi. Anche perché questo è proprio uno spirito di vita, oltre alla ricerca del risparmio, Bon Giovanni, questa è, come dire, una modalità anche di acquisto che risponde a determinati criteri e anche a uno spirito proprio di vita, direi. Ma ci può dire quanto si risparmia, per esempio, aderendo alla vostra iniziativa? Perché una famiglia dovrebbe interessarsi a questo progetto? Beh, questa è una domanda interessante. Secondo noi i motivi sono molteplici. Uno l'ha appena citato, fa capo al risparmio, perché i prodotti che noi commercializziamo, adesso a Bologna ad esempio abbiamo un listino testato di oltre 150 referenze che sono state commercializzate in un'area test in questo ultimo anno, e oggi usciamo, come lei ha detto, con una prima comunicazione ufficiale sul progetto, con l'obiettivo, dopo un anno di test, di mettere in campo quindi una rete. E le dicevo, i prodotti che abbiamo in listino sono fortemente competitivi rispetto ai prodotti venduti sugli scaffali della grande distribuzione dal punto di vista dei prezzi. Non sono competitivi con le merceologie vendute nei discount, però la qualità chiaramente che noi proponiamo su Spesa Utile è assolutamente superiore, lo dico proprio apertamente. Quindi allora, ascolti, oggi, da oggi in poi, le famiglie di Bologna che vorressero interessarsi al vostro progetto, ma avete, immagino, anche l'obiettivo di allargare un po' il vostro raggio d'azione, volete rimanere sulla Bologna? No, vogliamo allargarlo. Bologna è stata l'area test e c'è risultata congeniale, anche perché noi fisicamente siamo con l'associazione ISNET e a Bologna, ma poi la rete conta oltre 900 imprese sociali in tutta Italia e sono già in essere dei confronti in altre aree, in particolare in area proprio milanese, per replicare di Spesa Utile su altri territori d'Italia. Il sistema si presta ad essere vissuto anche dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle cooperative sociali, non solo, in una logica proprio di network, quindi di replica e facile standardizzazione dei processi. L'abbiamo pensato proprio in questa logica. Infatti, mi manca un minuto di tempo, dottoressa Bongiovanni, le chiedo, lei ci ha parlato di un listino composto da 150 referenze, chiaramente saranno quelli che entrano di più nelle abitudini di consumo delle famiglie. Mi chiedo, come trattate con i fornitori per avere dei prezzi competitivi? Anche questa è una bella domanda, nel senso che inizialmente, come tutte le cose che partono anno zero, si fa fatica a farsi capire e quindi anche ad ottenere delle condizioni privilegiate in funzione di quelli che erano gli obiettivi del progetto, sia in termini di prezzi ma anche in termini ad esempio di quantitativi minimi d'ordine, che era un altro aspetto importante per un network con queste caratteristiche. E nel momento in cui i fornitori si sono messi in gioco e ad uno hanno aderito al progetto, abbiamo visto, lo dico fuori di retorica, nel senso che questo è quello che è successo, che sono nate proprio delle complicità, diciamo così, tra azienda profit e no profit, nel senso che il fornitore che è entrato in contatto con la cooperativa sociale nel momento in cui è andato a consegnare i prodotti, la cooperativa funge da magazzino, si convince, come dire, della validità del modello e magari aderisce con maggior piacere. Benissimo, magari così. La logica del profitto viene un pelino meno, non viene a mancare del tutto naturalmente, però magari si può fare anche un passo avanti. Io devo salutarla, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ricordo i vostri riferimenti, oggi a Bologna viene presentata Spesa Utile, l'iniziativa è promossa da ISNET, impresasociale.net, abbiamo parlato stamattina con la presidente Laura Bongiovanni, a presto e naturalmente in bocca al lupo per oggi. Grazie Deborah, a presto, buona giornata a tutti. Alessandro, noi oggi a Salvadanaio non ce l'abbiamo perché seguiamo la diretta dell'Assemblea di Confindustria, per cui Salvadanaio torna domani e anch'io torno domani. domani qua, naturalmente. Ma certo. E allora anch'io torno domani qua. Rimango tutti qua anche. Tutti qua. Rimaniamo domani. Qua da tutta la notte. Rosa torni domani? Sì. La vedo al di là del vetro e torna anche domani. Tonica. Allora, noi parliamo di aiuti ai paesi in via di sviluppo. L'Italia non è ultima, è ultimissima, nonostante le promesse. Bob Geldof ci ha detto: siete un disastro, dovreste essere espulsi dal G7. Ma questi aiuti all'Africa fanno bene e soprattutto dovremmo dare allora più aiuti all'Africa? Ne parliamo proprio oggi, quando tutti vi arrabattate a capire se la vostra pensione verrà toccata. Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, parliamo di aiuti ai paesi in via di sviluppo. Questo è il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È venuto Bob Geldof, il cantante, attivista, a dirci: voi, italiani, avevate promesso di dare dei soldi all'Africa nel 2005 a Green Eagles. 5 anni dopo siete un disastro. C'è chi ha mantenuto gli impegni, la Gran Bretagna ha dato il 93% di quanto promesso. C'è chi ha fatto di più, come l'America, ha dato il 150% di quanto promesso. Voi avete fatto meno dello zero, avete rivisto anche al ribasso le vostre promesse. Siete un disastro, dovreste essere espulsi dal G7. Che ne pensate? Dovremmo impegnarci di più? Dovremmo mantenere questa promessa? Dobbiamo dare i soldi ai paesi in via di sviluppo? Vi facciamo questa domanda proprio oggi, quando si parla di manovra e tutti pensano ai propri di soldini e dei tagli che stanno arrivando, e proprio nel momento in cui imperversa da mesi, per esempio, tale Dambisa Moyo, economista dello Zambia, che va in giro per il mondo a dire: basta con gli aiuti, basta con i soldi, vi prego occidentali, a continuare a dare soldi ai paesi in via di sviluppo, fate il nostro male, alimentate la corruzione, impedite lo sviluppo. Allora, che ne pensate? Questo è il tema di oggi, ne vogliamo parlare intanto con il professore Enrico Colombatto, che saluto, insegna politica economica a Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Voglio salutare anche Jean Favre, che è consulente internazionale, è stato per decenni direttore del programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Buongiorno Favre. Buongiorno. E voglio salutare anche, ci sta ascoltando, viene definito così, un padre di frontiera, un comboniano di frontiera, Alex Zanotelli, che ha speso una vita tra gli ultimi degli ultimi di Gorogocio in Kenya. Oggi è a Napoli da qualche anno. Buongiorno padre Alex e benvenuto. Buongiorno. Allora, io partirei dai nostri due, possiamo dire così, docenti, insomma, esperti, economisti. Professor Colombatto, allora, questi aiuti fanno bene o fanno male? Ha ragione Dambisa Moyo a dirci: smettetela di dare i soldi al terzo mondo? Ma secondo me ci sono due tipi di aiuti. Ci sono gli aiuti allo sviluppo vero e proprio e gli aiuti di carattere umanitario. Se noi guardiamo quello che è successo negli ultimi 30, 40, 50 anni, gli aiuti allo sviluppo hanno fatto ben poco, e quindi dovremmo smettere di dare aiuti allo sviluppo, perché in realtà si è visto che non si riesce a sviluppare un bel niente. Chi si è sviluppato l'ha fatto non perché è stato aiutato, ma perché ha cambiato le regole del gioco a casa propria, ha reso interessante sviluppare attività imprenditoriale, ha reso interessante investire capitali, ha reso interessante produrre anziché ricavarsi delle nicchie delle rendite di posizione. Altra questione invece è l'aiuto assistenziale. Arriva una catastrofe naturale, carestia, e purtroppo in questi ultimi anni ce ne sono state tante. Credo che sia un dovere morale di ognuno di noi cercare di aiutare. In quel caso sì. Senta, ma quando Bob Geldof ci punta il dito contro, lei che pensa? Ma che si faccia gli affari suoi. Che si faccia gli affari suoi perché? Beh, perché innanzitutto se ci accusa di non aver mantenuto una promessa, ha ragione, perché tutte le promesse vanno mantenute. Se ci accusa di non aver buttato via dei soldi che sarebbero stati utilizzati meglio in altro modo, ha perfettamente ragione, è meglio non buttare via dei soldi. La maggior parte dei soldi che sono stati impiegati per aiutare lo sviluppo negli ultimi decenni sono stati soldi buttati via. Quindi lei dice: abbiamo in realtà risparmiato, cioè non abbiamo mantenuto una promessa, e questo è dato di fatto, sì. Ma almeno abbiamo risparmiato dei soldi che avremmo gettato via. Sì, beh... con una piccola postilla. Se noi guardiamo quello che succede alla spesa pubblica e all'impiego dei soldi degli italiani in questi anni, non c'è da stare allegri. Appunto. No, ma infatti noi, io oggi volutamente ho fatto questo tema, perché tutti dicono: ma come, dobbiamo pensare al terzo mondo quando abbiamo una manovra da 24,9 miliardi in arrivo? Però teniamo presente anche una cosa: molti di quei soldi, questa è la ragione per cui lo sviluppo non è decollato, sono finiti in mano a governanti che li hanno utilizzati in modo questo sicuramente, ma infatti, quindi, su questo appunto aiutare lo sviluppo, abbiamo aiutato coloro che remavano contro lo sviluppo, che è appunto la teoria di Dambisa Moyo, che, attenzione, appunto è questa economista dello Zambia, questa donna che il Time ha messo tra le 100 persone più influenti al mondo. Vorrei dal nostro Gian Favre e poi da padre Alex Zanotelli. Gian Favre, lei che ha un respiro internazionale, perché noi che siamo italiani adesso 24,9 miliardi di manovra che ci incombe, dovremmo pensare ai poveri dell'Africa. Ma perché la situazione non è quella che descrive il professor Colombato. La realtà è che ci sono due tipi di aiuti: quelli che passano attraverso i governi, da governo a governo, quelli che vanno direttamente dai cittadini alla popolazione, e poi c'è anche dall'altra parte un terzo tipo di aiuti, quelli che vanno tra il sistema multilaterale ONU, cioè in condizioni di controllo molto diverse da quelle che menziona il professor Colombato, ai paesi, perché un paese per svilupparsi ha bisogno di investire in certi campi come l'educazione, la salute, le infrastrutture e il sistema di credito bancario adatto alla situazione locale. Se non ci sono queste cose, non c'è sviluppo, e queste cose non nascono dal nulla. Non è che l'economia cresce, esiste e poi si riesce a fare certe cose. E molti paesi del terzo mondo sono paesi assai piccoli, non hanno la dimensione della Cina o dell'India, e una diversità economica che li consente di avere soldi a livello dello Stato centrale per poter aiutare lo sviluppo proprio e locale. E dunque c'è una fase nella quale bisogna aiutare la gente. Non è solo l'aiuto umanitario che serve. Quindi, lei che ne pensa di Bob Geldof? Il professor Colombato ha detto: si faccia gli affari suoi. Invece, secondo lei, fa bene a redarguirci, a dire? Dire che l'Italia deve uscire dal G7 è forse una provocazione, sì. ma ha ragione Bob Geldof, nel senso che non è che l'aiuto non serve, è che l'aiuto è stato insufficiente. Se lei ha il terzo del denaro di cui ha bisogno per costruire la casa non sarà mai finita. È quello che abbiamo fatto per tantissimo tempo, e d'altro canto abbiamo molto spesso, attraverso specialmente l'appoggio da governo a governo, ha appoggiato delle politiche o dei governi senza chiedere dei conti, perché l'aiuto da un governo all'altro era molto spesso un gioco politico, e allora non se ne fregava nulla del fatto che l'altro governo spendeva male i soldi, perché dietro c'erano accordi di tutti i tipi. Allora, io intanto devo dire che su Radio24.it molti votano, vi state dividendo: il 55% dice no, non bisognerebbe fare di più, il 45% sì, ha ragione Bob Geldof. Insomma, il tema però è interessante. Io, padre Alex Zanotelli, l'ho fatta volutamente ascoltare questi due nostri docenti, economisti, professori. Lei, che ha vissuto la povertà di Gorogoccio in prima persona, per esempio, ha visto tanti flussi di denaro arrivare dall'Occidente sprecati? Allora, prima di tutto grazie per questo invito, questo dibattito che ho ascoltato con molto interesse. Io direi, prima cosa, io rimetterei subito in discussione un po' il vocabolario. Sarebbe ora finalmente di cominciare a smetterla di parlare di sviluppo. È finito. Se noi andiamo avanti con il nostro concetto di sviluppo all'occidentale, sarà impossibile vivere su questo mondo. I tecnici ci dicono che se tutti vivessero come viviamo noi, avremmo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse, altri 4 pianeti Terra come pattumiere o buttare i rifiuti. Quindi dobbiamo smantellare, forse non usare più questa parola, come non dovremmo più usare il PIL ormai, non dovremmo usare la parola sviluppo. Seconda cosa, io penso che il problema, quello che Bob Geldof dice, per me È verissimo, è una vergogna che il governo italiano sia arrivato a questo punto. Com'è possibile che spendiamo 24 miliardi di euro a finanziare di quest'anno in armi, questo è il bilancio di quest'anno, e non troviamo qualche cosa per dare una mano a chi sta soffrendo? È una vergogna totale, proprio su questo. Però d'accordo su quello che viene detto sul problema dell'uso di questi soldi. È giusta la distinzione, qui è, sarò brevissimo, ed è uno dei problemi fondamentali. Questi soldi purtroppo vanno da governo a governo, questo è giustissimo. Dovrebbero invece i soldi andare alle basi, alle comunità, alle piccole cooperative. Difatti è da anni che io sto insistendo con tutti i partiti che sono andati al governo perché facessero una legge di cooperazione, fosse cambiata, per permettere alla società italiana, che è così ricca di iniziative alla base, di poter connettersi in chiave politica proprio, non con i governi del sud del mondo. Cioè non darle ai governi che sono spesso corrotti, anche perché ci sono state inchieste di soldi finiti lì e che i governi africani, alcuni governi hanno usato per comprare armi, fare guerre. Esatto. Ma ricordiamoci una cosa, che se non diamo una mano a quest'Africa, l'Africa ci invaderà. Pensiamo soltanto a 250 milioni di rifugiati climatici che fra qualche anno avremo alle porte. Sarà cioè è interesse nostro. Questo è un tema, questo è un tema interessante. Voglio ripartire da qui dopo il traffico per capire che in realtà non è un discorso così lontano quello che stiamo facendo dalla realtà nostra. Non è un discorso così lontano, perché se ci vogliamo sempre guardare l'ombelico è lontanissimo, se invece vogliamo aprire un po' le nostre menti non è lontanissimo, perché l'Africa poi è lì a due passi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, 8:47 minuti, 800 24 00 24, prima di tornare dal professor Colombatto, ora è un ascoltatore, mi dicono Petter, se lo leggo così, da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Sì, io sono un ascoltatore, io sono il console della Namibia in Italia. Ah, buongiorno, che ci ha chiamato. La Namibia è un paese africano. Certo. Un paese piccolo, un paese relativamente poco importante, ma un paese africano. E come console di Namibia mi permetto di dire che non tutti i paesi africani sono corrotti e non tutti i contributi, le assistenze, i supporti dati dai paesi ai paesi africani, ai paesi europei, ai paesi cosiddetti donors countries, no? I paesi dei donatori, sono andati. Ma è chiaro, cioè l'Africa non è un monolite, voglio dire, l'Africa poi è come sarebbe dire l'Europa, è fatta da tantissimi stati. Voglio dire. E per esempio. Sì. Dica, secondo lei Bob Geldof ha ragione? Questo è il tema, Bob Geldof, Bono, che ci dicono. Bob Geldof ha ragione, l'Africa non deve più avere soldi a pioggia, l'Africa non ha più bisogno di avere soldi a pioggia, l'Africa ha bisogno di avere un interlocutore alla pari quando discute nelle organizzazioni multinazionali, l'Africa ha bisogno di potersi confrontare sui mercati internazionali così come tutti gli altri paesi si confrontano sul mercato internazionale. Certo che il punto di partenza è leggermente molto più basso, però cosa non abbiamo fatto noi bianchi industrializzati negli ultimi tre secoli? Abbiamo portato via le risorse dall'Africa sostanzialmente senza lasciare. Abbiamo portato via le risorse, questo è un bel tema. Allora, professor Colombatto, io questo tema, quando sono andato in Mali qualche anno fa a fare un piccolo viaggio, insomma, sono rimasto colpito da questo esempio che mi ha fatto un coltivatore di cotone del Mali, che dice: io sono un coltivatore di cotone del Mali, porto il mio cotone sul mercato di Bamako, che è la capitale del Mali, ma trovo il cotone in surplus francese che grazie alla vostra politica agricola comune di protezione dei vostri prodotti viene quello che è in eccedenza portato sul mercato di Bamako e costa meno il cotone prodotto in Francia in eccedenza e portato in Mali che il cotone che faccio io qui in Mali e porto al mercato di Bamako. Come faccio io a sopravvivere? Come mi emanciperò? Dov'è questa libertà di mercato che mi permetterà di svilupparmi? Perfettamente ragione. risposto. Ha perfettamente ragione. Fino a, conta molto di più la nostra apertura alle regole del libero mercato che non tutti gli aiuti che possiamo immaginare. Certo che se noi vendiamo sotto costo o peggio regaliamo beni che i produttori locali potrebbero produrre, togliamo tutti gli incentivi a svilupparsi, anzi creiamo degli incentivi all'assistenzialismo. Quel suo agricoltore, anziché mettersi a produrre cotone, domani andrà a mettersi in coda a un ufficio delle Nazioni Unite per chiedere il sussidio. Appunto, però voglio dire, non gli diamo i soldi, però facciamo anche delle regole di mercato che non consentono di sviluppare, e come fanno? Cioè, No, noi non stiamo facendo delle regole di mercato, noi stiamo cercando di stravolgere il mercato. Noi dovremmo smetterla, dovremmo per esempio azzerare le politiche agricole comunitarie. Diciamolo ai francesi soprattutto, no, ma anche a noi italiani. Diciamolo anche a Geldof. Invece di prendersela con i mancati aiuti italiani, magari potrebbe prendersela con le politiche assistenziali che non sono forse del tutto disinteressate di molti politici europei e anche americani, perché le politiche agricole ce l'hanno. Vediamo se su questo anche Jean Fabre, lei, so che lei spesso faceva, c'è un esempio simile sui polli in Senegal forse, cioè, ma il concetto è sempre uguale, voglio dire, cioè che costa di più produrli lì sul luogo perché ci sono delle politiche internazionali che favoriscono l'esportazione, esatto, dall'Europa lì. E non bisogna essere demagogici in questo caso, perché dappertutto i governi intervengono sui mercati, non c'è mercato libero. E allora non raccontiamoci delle barzellette, e anche per questo bisogna non essere demagogici, perché è vero che abbiamo bisogno di aiuti a livello della base, ma c'è anche bisogno di aiuti a livello del governo, ma per fare delle riforme, per imporre la democrazia, per pagare gli stipendi negli ospedali, per comprare il materiale che c'è dentro, per pagare gli stipendi dei professori nelle scuole, perché non tutto può essere pagato al privato, quindi smettiamola, sarebbe come dire che non c'è bisogno né di comuni né di regioni né di governo nazionale in Italia, l'Italia sarebbe un disastro se non fosse così, quindi smettiamola che ci sia bisogno di controllare l'uso pubblico del denaro, questo è certo, ma questo si fa anche con un popolo educato che ha la possibilità di intervenire nel dibattito democratico. L'altra cosa che bisogna metterci in testa è che il mondo è cambiato, che ha ragione Zanotelli quando insiste sul fatto che ci sono altri elementi come l'ambiente eccetera e le risorse naturali, ma c'è anche un'altra cosa che è cambiato totalmente, che non dobbiamo più parlare di aiuto, perché di aiuto non si tratta, si tratta di investimento nella risoluzione dei problemi comuni. Sì, aiuto a aiuto l'essere umano uguale dappertutto. Sì, aiuto a un'idea quasi così, come dire, ti do questo. E infatti padre Alex, un ascoltatore ci scrive: non darmi da mangiare, insegnami a pescare. È più importante dar da mangiare o è una visione un po' retrograda, passata? Bisogna insegnare a pescare. Sì, sono delle metafore che usiamo che vanno benissimo, ma io volevo ritornare proprio sul discorso, dato, mi sembra che sia, lo stiamo impostando adesso in maniera nuova e bella, in questo senso che l'importante oggi sono le politiche che noi diciamo, meglio sarebbe le decisioni economico-finanziarie. Per esempio, l'Unione Europea dà all'agricoltura in Europa 50 miliardi, metà del bilancio europeo va all'assistenza all'agricoltura. Certo. Noi in questi anni abbiamo fatto, c'è stata tutta la campagna dell'Unione Europea per gli EPA, gli Economic Partnership Agreements, questi accordi di partenariato economico, li abbiamo forzato l'Africa. Perché cosa? Perché così devono togliere, non c'è più delle cose particolari, non ci sono più zone particolari, perché il mercato, obblighiamo l'Africa adesso a togliere le tariffe, a togliere i dazi, così, e cos'è che avviene? Avverrà che noi che abbiamo un'agricoltura sussidiata dalla UE, noi potremmo vendere sui mercati africani i nostri prodotti agricoli e gli africani moriranno di fame. Queste sono le politiche atroci che affamano e distruggono l'Africa, è questo che dobbiamo assolutamente contestare. Va bene, ma senta, padre Alex, ma se le danno del preteno global, lei si offende o no? Non ho mai capito questo. No, cioè non è che io abbia problemi sul no global, il problema è che io non ce l'ho con la globalizzazione in sé, ce l'ho con una globalizzazione che è dettata da che cosa? Praticamente da un liberismo che non ha regole e che permette a pochi di avere sempre di più a spese di molti che ha sempre di meno, cioè è la contestazione di questo tipo di globalizzazione che si è instaurata. Va bene, io vi devo ringraziare Enrico Colombatto, insegna politica economica a Torino, Jean Favre e padre Alex Zanotelli, spero davvero sia stato un dibattito per aprire un po' anche le nostre menti. Ora torniamo a occuparci di pensioni eccetera, la manovra, il taglio delle province, ci sarà questo taglio delle province sì o no? Chi lo sa? Grazie, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, Bianco o Nero e Radio24.it. A domattina.